Che sigla. Buona andata. Sì. Così. Va bene. Penso di sì. Orco Giuda. Orco Giuda. Allora sarà una puntata piena di microfoni che clippano, gracchiate in cuffia, gracchianti. Gente che per fortuna non ascolta qua, soci, perché abbiamo fatto nessuno. Il buco nero. Mazza, veramente. Black hole. E speriamo anche online. Ma così. No. Ma sì, dai. Ma così. Si possono vedere gli ascoltatori in diretta? Certo. No. Sì? Sì. Ma va. Certo, possiamo fare tutto noi, che abbiamo le chiavi di accesso al allora, potere. Allora, salutiamo Gaia, che sono sicura ci sta ascoltando. Ciao Gaia. Anche mio fratello, salutiamo anche Guido. Ciao fratello Guido. E vabbè, allora, è un crossover? Ma si dice crossover o... Come cavolo si diceva? Coli mi aveva detto un'altra cosa. Uno shipment. Shipment di Cabaret Voltaire ha shippato gli ascoltatori del complotto. Sì. Quindi sei rovinata. Rovinata. Sì, vi rovinata. Ho rovinati. Da 0 a 0. Allora parto io. Con cosa vuoi partire esattamente? Allora, ho una domanda, cioè volevo chiedervi la questo. Musica in sottofondo. Esatto. Ma cosa vi ha spinti a fare un podcast sul complotto? A me Giovanni mi ha spinto a fare questa cosa perché... Ah, vi presento Edo. Edo, ciao. Giovanni. Ciao Laura. Penso c'è in mano la situazione, eh? Ecco, sì. No, ma la prossima, quando faremo gli ospiti a Cabaret Voltaire, noi presenteremo. Non è vero, perché andrà si uguale. Presenta l'ospite, si presenta, no? Ah, si sente qualcosa sono qui sotto? No, siete voi i miei ospiti. Aspettalo. Alzo tutto. Edo, introducici a questo background. Sì, allora, come ogni puntata, cioè terza, seleziono colonne sonore di videogiochi, anime, film, cose. Questa è la colonna sonora di un videogioco che si chiama Nier Automata, ambientato in una situazione post-apocalittica in cui tu sei un droide. Una droide fighissima, tra l'altro. Perdonami, mi spieghi che cos'è un droide? Un robot. Un robot. Sì, okay. Un androide. Androide c'ha l'umano dentro. Infatti, perché androide in realtà. È un mondo in cui sono arrivati questi cyborg dallo spazio che hanno distrutto la razza umana, se non che sono rimasti qualche sopravvissuti. Ma grande spoiler, che al finale del gioco non ve lo dico. Complotto. Sì, enorme. Grande complotto, è molto legato perché insomma vien fuori che alla fine della fiera non era è tutto proprio il sogno dell'androide. No, però che gli umani non è che siano proprio quelle facce da cazzo che ci aspettavamo. Sopravvissuti veramente, ma sono tutti androidi in realtà. Ah, vabbè. Anche gli umani con cui interagisci, che loro ti trattano da androide, in realtà poi sono tutti androidi. Incredibile. Molto bello. Quindi volevi iniziare tu? Io ho già iniziato. Ah, quindi okay. Cosa ti ha spinto Giovanni a fare un podcast sui complotti? Allora, la mia mente malata, diciamo. Cioè tu, ti rigiro la domanda. Tu cosa leggi mentre sei sul cesso? L'internazionale. Quindi sei anche tu molto complottista. Mamma mia. Sei anche tu digitale o cartaceo? No, cartaceo. Cartaceo. Vabbè, quindi ce n'è di complotti lì, insomma. Un mazzo, sì. Infatti per questo a un certo punto... Perché gliel'hai chiesto? Cioè, era scontata come risposta. Io forse sono partito anch'io con l'internazionale. Ma nessuno che guarda YouTube, no? No, cioè, come noi poveri imbecilli. Partito. Cioè, ovviamente adesso... Qua intanto Nair prende... Sì, sì, qui ti stai muovendo nelle delle rovine di una città abbandonata. E... ogni tanto guarderai anche YouTube. Capisco che devo non sia la piattaforma YouTube preferita da mai, non sono mai stata una ragazzina di YouTube. Male. Allora direi social media. Le mail. Wikipedia non è... Lo spam. Il bagno. Il cesso è il mio ufficio. Quando devo fare le telefonate di lavoro le faccio da lì. Tipico, veramente. È favoloso. Tipico. C'è no, un... le telefonate no, però con l'eco favoloso. Lo sciacquone che dici metto che in muto, viva voce. Esatto. esatto. Si sa mai. Favoloso, quando devo fare gli accentuo audio. Accentuo o attenuo a sto punto? No, perché adesso c'è anche, quando fai gli audio puoi stopparli, quindi è favoloso. Puoi fare audio di 20 minuti mentre sei, certo, al cesso e certo, riprendi, metti, dopo, esatto, fai la scureggia, esatto, e poi riprendi. Esatto, certo. Questo è più o meno come mi intrattengo, sì, nel mio bagno. Va bene, io leggo un sacco di pagine Wikipedia su qualsiasi cosa. Cioè non Enciclopedia Treccani? No, no, no. Da quando ho abbandonato il cartaceo, tipo l'internazionale, leggo Wikipedia con degli obiettivi. Quindi se per oggi mi sono dato come obiettivo Cabaret Voltaire, leggo tutti, ah, certo, i personaggi, tutti i link blu. C'è la Wikipedia run. Faccio una Wikipedia run di tutto quello che succede. Ma infatti hai mai fatto una Psichipedia? Una Wikipedia una run? Una Psichipedia run non l'ho mai che fatta. Che parti devi arrivare? Devo partire dire... da Cavour e arrivare a Zio Pepe. Zio Pepe, esatto. E solo attraverso, tramite le parole in blu. Quindi devi cliccare, no, e riuscire, fantastico, a... Sì, molto divertente. Lo farò domani. Bellissimo. Ispirata da questa puntata. Ti metti la Nutella e Hitler, e devi arrivare a Hitler attraverso la a partire dalla Nutella. Incredibile. Meraviglioso. È un po' come quella legge secondo cui tramite 7 conoscenti riuscirai ad arrivare a chiunque nel mondo. Nessun grado di separazione. Sì, non ho colto la reference, ma è quella. Non so neanche di chi sia questa canzone in realtà. Però mi suonava. Tiziano. No. Era in acuto. Giorgia. Giorgia. Non quella Giorgia. Non quella Giorgia. No, non lei, un'altra Giorgia. Giorgia, ottimo, quindi... collegamento qua. Quindi la mia mente funziona a Wikipedia run. Cioè, tu mi dici Dada, io apro Dada e dico ci sarà qualcos'altro oltre al fatto che sono un collettivo che ha fatto una zin, ha aperto un locale e ha ispirato un movimento, ha creato un movimento. Ci sarà qualcosa e sotto. E cosa hai scoperto? E a seconda, diciamolo, di cosa clicchi dentro le tue Wikipedia, ecco, puoi arrivare. Come hai scoperto del Mossad? Esatto, dai Dada. Guarda al come Mossad. Già lanciamo una bomba. Dai Dada. Partiamo dalla parola Dada. Un paio. Partiamo dalla parola Dada. Perché? Allora, c'è tanto mitologia, complotto. Ma vogliamo contestualizzare per gli ignoranti che non leggono l'internazione sul Battersea. Esatto. Allora, vi dico in breve il mio punto di vista artistico. No, dacci una definizione enciclopedica del movement Dada. Ok, allora, si sviluppa durante la prima guerra mondiale, anni 15-18. 14, 18, 14. Dai, 15, no, quando entra in Italia. Per io sono l'Italia. Per me, cazzo, me ne frega degli altri. Ok. Mio nonno mi allora, carate il movimento tedesco. Dada si sviluppa per andare, come dire, per smontare tutte le regole, costrutti che hanno portato alla pazzia della guerra, e quindi questi artisti inorriditi da quello che gli stava succedendo politicamente, storicamente, decidono di fare un movimento artistico che mette in discussione tutti i valori che c'erano stati fino a quel giorno. Quindi infatti Dada non vuol dire nulla. Poi sono curiosa di scoprire cosa hai trovato. Però non vuol dire niente, quindi... Però come hanno scelto la parola Dada? Cioè perché noi abbiamo scelto Vuoi saperlo? Exalge? Allora, esatto, praticamente loro facevano queste serate tipo un po' teatrali, un po' folli, in cui facevano degli show. Era anche molto sotto... basato su letteratura e sono scrittura tutti creativa. I fondatori sono tutti dei letterati, poeti, cioè non sono effettivamente, cioè sono poi diventati alcuni artisti, ma di fatto i fondatori che hanno firmato il manifesto sono poeti. Principalmente era letterario l'ambito. Esatto. E praticamente in una di queste serate, probabilmente sotto effetto di qualche alcolico stupefacente, hanno iniziato a sparare a caso delle parole ed è uscita fuori questo. Perché poi loro durante questi spettacoli, se vedete questi video sono pazzeschi, che ricordano questi momenti, facevano tantissimi versi. E proprio per anche in questo senso smontare anche la lingua, e anche in questo senso un po' una sovrastruttura, un costrutto di linguaggio. E quindi attraverso i suoni che sono usciti fuori è uscita fuori questa parola, o almeno così si dice, e hanno deciso di coniarla come nome del loro movimento. Dada. Proprio perché effettivamente non vuol dire niente, cioè non ha un significato. Ma erano francesi? Non lo so. Francesi, no, sloveni, no, no. Russi. Diventa dappertutto. Sì, un po'. Sì, ma chi è che ha scelto Dada? Giusto Tristan per la pronuncia. Zara. Era russo, quindi era Dada. Era Dada. Stavo pensando a sta stronzata. Era un se sì, era sì. Dada, se era francese. Sì, sì. Oppure hai visto la sorpresa. Ma avete scelto il nome Dada? Magari era un e da lì è esatto. Tristan. Come un'eureka, un'eureka. Ta-da! Ah, tu dici eureka? Io ho sempre detto eureka. Incredibile. Scusa, il gioco delle scoperte. Si diceva eureka, il gioco eureka. Delle scoperte. Ma dipende se sei veneziano o russo. O siciliano. O catanese. E basta, quindi questo è successo, e nel 1918 è uscito il manifesto ed è cominciato questo movimento folle. Direi che l'esempio più famoso a cui magari le persone possono un po' associarsi è Duchamp. E quello del water. Quello del pisciatoio. Quello del pisciatoio. Guarda quanto è bravo Giovanni. Trente lode. Grazie, grazie mille. Fatto, portato a casa. Della Gioconda, no? Della Gioconda. De Cabaret Voltaire. Esatto, esatto. Ah, quella dei baffi. Quella dei baffi. Sì. Un ready made. L'enciclopedia veramente vorrebbe che in uno di questi giochi letterari, che consisteva nell'aprire il dizionario a caso e scegliere le parole, avessero puntato il dito su Dada. Ah. Che nel dizionario poi viene fuori come eventualmente le prime parole che dice il bambino, piuttosto che cose del genere. Cioè, una scelta casuale. Mm. Al di là che era già casuale. Quindi era una parola esistente potenzialmente. Sì, era. Sì, okay. Sì. Comunque un verso praticamente. Quegli animali dei bambini. È proprio un, no, sì, cosa? È un verso. Invece io ho trovato. Cosa hai trovato? Chiari riferimenti al suono delle mitragliatrici. Ma allora, è possibile? Perché poi avevano creato ovviamente anche dei libri in cui scrivevano, cioè come dire, invece di, in questo senso tipo hanno anche messo in discussione la scrittura, per cui se voi aprite un libro d'arte Dada sono tutte parole scritte come dire in punti diversi della pagina che sono magari anche ribaltate, cioè è tutto molto... Collage. Sì, sono come molto... Come lo chiamano loro? C'è un modo più carino made. Di dire collage. Collage non è una forma artistica, è un... Certo, no, non è un collage. Si chiama in un altro modo la forma artistica. Zaber cosa dice? Juxtaposition. È una forma di... è una tecnica in poesia. La giusta sì, posizione. Non lo so, cosa ci dice l'internet? Colori. Tecnica collage, del collage. Dada smart history. Dada collage. Fotomontaggio e collage. Collage dadaista. Collage, no, collage. Ma sono collage. È una parola, il collage. Tecnica okay. Dada, il collage. Ok, l'hanno un po' creato loro il collage. Che forte. No, io parlavo proprio di mitragliatrici cosmopolite. Perché? Ma perché poi, appunto, siccome criticavano la guerra, facevano tantissime cose anche di... tipo, ci sono questi video neri in cui si sentono solo suoni di guerra. Però, diciamo che non criticavano la guerra e basta. Criticavano tutto. Tutto. Qualsiasi cosa, a prescindere. Per tutto. Poi smentirsi dicendo... No, non critico. Cioè, qualsiasi cosa tu opponessi a un loro ragionamento, proprio perché... volevano annientare l'ipotesi di qualcosa di razionale. Esatto. Sì, erano capaci di smentirsi tranquillamente su qualsiasi cosa. Infatti è il movimento del non senso. Cioè, infatti, come dire, non sono proprio, come dire, nonostante siano molto critici, sono molto giocosi. È un movimento molto spiritoso, per cui no, come personaggi poi non erano assolutamente voglio dire, erano indubbiamente involved politicamente, avevano una posizione critica sociale, però poi di fatto nell'arte no, cioè non era questo l'intento, era più trovare un modo per che magari oggi può sembrare banale perché siamo un po' abituati ad altro, però metterti in discussione, cioè trovarti di fronte all'orinatoio o alla Gioconda coi baffi, e un po' il discorso era quindi che cosa può essere arte, che cosa, cioè quali sono i tuoi valori nella vita. Quindi più che dare una risposta era forse mettere la persona di fronte a un mettersi in dubbio. Ok, qui c'è un po', secondo me, la prima contraddizione dada, che va al di là della contraddizione che loro cercano in sé, ma proprio una contraddizione storica, nel momento in cui loro, con questo voler decostruire l'arte in quanto sistema pieno di dogmi, perché arriviamo, va bene col romanticismo poco prima, ma da tutta una serie di idee di arte basata sulla chiesa piuttosto che sul potere, e quindi su degli schemi artistici abbastanza stretti e dettati, e dal razionalismo pre-romanticismo, volevano decostruire queste idee di arte, però nel farlo non hanno semplicemente decostruito, ma l'hanno praticamente annientata, nel senso annientata, che, sì, sì. Che poi è diventato il cesso, che è la fontana, e piuttosto che un'opera che può valere milioni, ma è mera speculazione dal punto di vista, se si parla di tecniche piuttosto che... Sì, sì, assolutamente. Infatti il tema è anche il ready made gioca proprio sul fatto di anche dirsi, quindi tutto può essere arte, cioè quindi anche un urinatoio o non lo so, c'è una famosa scultura di Duchamp che è una pala per spalare la neve, e si chiama Scuse per il braccio rotto, perché il senso è: mi scuso del fatto che, siccome ho tolto la pala a qualcuno per spalare la neve, questa persona cadrà e si spaccherà il braccio. Quindi bello. È tutto molto... Qualsiasi cosa può diventare arte, quindi è molto giocato su questa cosa qui, assolutamente. E la Gioconda in sé è un gioco... forse è un po' più sottile, per il fatto che non è che critica la Gioconda, non è che critica Leonardo, ma è critica quello che Leonardo rappresenta per le persone, quindi il fatto che tutti lo amano e amano quell'opera solo perché è l'opera di Leonardo, e quindi vanno a vederla, la stimano e gli danno un valore appunto anche culturale, ma di fatto poi magari non sanno neanche, cioè non mettono neanche in discussione quello che rappresenta, se è ancora un valore che va bene per quell'epoca e per quello che stanno vivendo. Quindi gioca in verità, sì, che poi comunque ha lo stesso effetto sul futuro. In ogni caso, tutto il prodotto del Dada critica questa cosa, ma ne fa uso in continuazione, dal surrealismo all'arte contemporanea, moderna. In ogni caso va a finire che sei legato a un nome, sei legato a un trend, sei legato a una speculazione, e veramente in pochi poi magari approfondiscono, esatto, piuttosto che creano veramente un discorso sull'arte, su qualche opera d'arte. E nonostante un'opera possa avere dei pensieri alla base o dei risvolti sociali, raramente poi sono quelli che importano. No, no, assolutamente. Infatti è proprio... Secondo me il Novecento in generale, cioè a parte il Dada, tutti i movimenti d'avanguardia hanno un po' rotto con una tradizione passata, che infatti sono opere che sono contemporanee ancora oggi, mi sento di dire, chiaro. Cioè hanno, perché hanno proprio messo in discussione il sistema dell'arte e quello che aveva rappresentato fino ad allora. Ma secondo te il sistema post-Dada, potendo definirlo sistema, perché c'è un po' una sorta di anarchia liberista del mercato dell'arte, non c'è un vero e proprio sistema, mentre prima si poteva dire che c'era una sorta di sistema, nel senso potente, soldi, artista, rappresentazione del potente. Sì, assolutamente. Mentre poi c'era anche un potere di... cioè tipo a un certo punto, soprattutto diciamo se parliamo di arte contemporanea, perché nel passato ancora invece era molto papale, religiosa l'arte, c'era, no? Quindi, cioè il sistema era mecenatismo piuttosto che logiche simili, insomma. Esatto, invece poi a un certo punto iniziano a esserci i salon degli artisti, e quindi chi poteva accedere a questi spazi, a queste esposizioni, assumeva ovviamente un valore economico e un valore anche culturale importante, però ovviamente c'era una giuria a selezionare queste opere, quindi anche allora c'era tutta una lobby, tanto che tantissimi artisti di questi movimenti d'avanguardia invece fanno questi controsalon in cui espongono invece quelle opere assurde, tipo insomma, non so, i realisti francesi, e quindi non so, in realtà anche gli impressionisti, cioè tutti quei movimenti nuovi che avevano questi spazi quasi un po' più underground. E questo mi fa pensare, intanto ti chiedo se, ritornando alla domanda, se il nuovo sistema, tra virgolette, ma tu dici oggi? Sì, okay. Secondo te. Di gioco è socratico comunque, che va avanti a domande, cioè non è che... Ha iniziato lei. Non dice così. Ha iniziato a domande. Prego, prego. Ti chiedo se secondo te è sostenibile, non userei come parola, piuttosto magari accettabile rispetto al precedente. Non so, ti piacerebbe una sorta di mecenatismo, ti piacerebbe vederlo di più, ma magari slegato da quelle logiche di sovranismo potere che i Dada, mandando l'arte a puttane, hanno per fortuna eliminato. Però insomma, è costato tanto secondo te il passaggio da una struttura precedente a quella senza struttura? Sì, è costato tanto. Quello che penso è che secondo me quel periodo storico lì non c'è più, cioè è stato un periodo fertilissimo, cioè se pensi anche, non so, che c'è stato Freud, che c'è stata tutta quella parte, cioè la nascita dell'inconscio, non so come dire, della scoperta di tutto. Viene da dire tabù. Che non c'è più niente di non scoperto, sì. Insomma, che portiamo avanti dei retaggi che, come hanno cambiato loro il mondo, non lo stiamo cambiando noi alla stessa velocità. Quello no, lì era un mondo che è cambiato da un giorno all'altro. Sono anche delle lotte diverse, penso, assolutamente. Quindi, cioè lì forse la rottura è stata, e poi forse noi lo vediamo con una distanza storica, per cui oggi non riusciamo magari a vedere delle cose più vicine a noi. Sì, infatti io non sono d'accordo con quello che dici tu, ma vai, poi mi aggiungo. Cioè, volevo solo no, cioè, sì, secondo me è proprio è una cosa diversa, e ai tempi è stato sicuramente difficilissimo, anche perché poi c'era proprio anche un rischio di vita, cioè soprattutto in dei regimi totalitari, cioè non si poteva assolutamente, cioè non so come dire, rischiare. No, ok, però sono partiti con 500 copie. Sì. A Zurigo, zona neutrale, ricchissima. Ah, aperto un locale, cioè difficilissimo in che senso? Nel senso, no. Adesso se tu volessi rivoluzionare l'arte dal sistema non sistema in cui è, allora ti direi che è più semplice, per il fatto che abbiamo dei mezzi più accessibili a tutti, la vedo un po' in questo senso. In quel contesto lì penso che fosse comunque un'arte più elitaria, cioè non tutti avevano accesso né a livello intellettuale né economico né geografico per poter accedere e capire quella innovazione, oltre il fatto che appunto vivendo in dei regimi comunque totalitari poi era difficile per le persone anche semplicemente avvicinarsi a questa cosa, no? Però a queste correnti, a questo... dall'altro canto ha scoperchiato, credo, proprio dei tabù enormi, se pensiamo a Dalì, non so, a tutta la sfera sessuale dell'arte, al surrealismo, all'astrattismo, cioè in questo senso dico c'è stata proprio l'informale, poi quindi tutte queste arti che hanno cercato delle dimensioni altre, che andassero anche quasi al di fuori della normale struttura di quello che si pensava fosse arte, quindi scultura e pittura banalmente, no? E oggi io credo che sia più, cioè il problema sia un altro. Io penso che abbiamo più accesso a degli strumenti, quindi tutti potenzialmente possiamo essere artisti perché abbiamo facile accesso allo strumento per crearla. Credo che sia più difficile invece trovare un progetto interessante, quindi non banalizzare ed estetizzare l'arte. Cioè io penso che ci sia questo problema anche nell'architettura, cioè in generale nelle arti, anche nella musica, cioè tutti possiamo nella nostra stanza registrare un pezzo, onestamente, avere anche un'ottima qualità con degli strumenti basici, e che tutti, ma siamo più o meno alla, cioè tutti diciamo, cosa che sta accadendo tra l'altro, no? Esatto. Sì, è così. La differenza, cioè la problematica è, oltretutto in un paese, in un mondo così globalizzato, è riuscire effettivamente ad avere quella quella voce. Cioè i Dada sono riusciti ad avere quella voce perché avevano anche in qualche modo erano comunque dei letterati, dei poeti, quindi erano già inseriti in un sistema più o meno elitario, ricco. Oggi poter avere, essere, non so, un giovane artista in qualsiasi senso, cioè in arte intendo in senso lato, è possibile per tutti, è meno facile avere effettivamente una voce, avere un, cioè poter cambiare un sistema. Io credo che manchi anche un senso di identità, cioè, quindi non so, appunto penso, tutti facciano delle belle foto. Cosa distingue la mia foto del cellulare da un artista? E quindi sì, anche Cristo, che ha inquinato uno dei laghi italiani, adesso dici chi cazzo è Cristo? Cioè, no, nel senso, sì, è uno dei più grandi artisti del mondo. Esatto, è figlio di Dio. Però chi se lo incula? Cioè, non è che ne parli tutti i giorni, mentre magari Dada nel loro, nel circolo artistico, letterario d'avanguardia di quel tempo, era tutto ciò di cui bisognava parlare, al di là di tecniche artistiche. Era paradossalmente più facile perché erano anche proprio più unici. Invece oggi penso che sia veramente più facile avere accesso al mondo artistico, solo non so, ecco, penso che manchi un po' una qualità, un progetto reale, un'identità. Secondo me non è una questione di qualità, è una questione di urgenza. Io credo che alla base dell'arte, della creazione artistica, ci debba essere un'urgenza. E oggi viene valorizzata tanto l'arte che non ha urgenza. E quindi è normale. Cioè, se pensi, io sono principalmente, vivo un po' nel mondo della musica, quindi cioè, il mio riferimento artistico è quello. Se pensi alla musica che arriva a tutti oggi, non ha urgenza. Non ha urgenza di uscire. Cioè sì, non ha un'anima. E forse non ha neanche un rivale, diciamo, al di là dell'urgenza di parlare di qualcosa o di comunicare qualcosa, anche magari dal punto di vista tecnico, sperimentale, non ha rivali. Questo lo dico perché mi ricollego un po' alle forme artistiche come si sono evolute tra fine 800 e inizio 900, forse anche grazie a causa dell'arrivo della fotografia, per cui nel momento in cui del cinema tu puoi rappresentare certe cose molto meglio che con le tue tecniche pittoree, a quel punto devi iniziare a indagare nuovi ambiti da poter rappresentare su tela piuttosto che a parole, nel momento in cui è possibile stampare manifesti, giornali, ti devi inventare per tutti o per sempre più persone, sempre di più, più economicamente, ti devi inventare un modo per rappresentare le parole in maniera più efficace, più prorompente, quindi collage, decostruire le parole, piuttosto che surrealismo, per venire a compromesso col fatto che la fotografia è realismo puro. C'è comunque un tema anche su questo, eh? Man Ray, che è un dadaista, era un fotografo e giocava invece molto su questa messa in discussione sulla fotografia e sul realismo della fotografia. Però vabbè, poi entriamo in una parentesi troppo lunga. Approfondiamo. Facciamo una parentesi su Man Ray. Però da un punto di vista pratico, se tu mi chiedi da un contesto, io penso che in realtà paradossalmente i mecenati oggi siano più liberi di anche sostenere, come dire, delle realtà o appunto degli artisti, delle artiste più particolari, cioè hanno meno quella pressione invece politica di un tempo. Al contrario, penso che cioè, come dire, a parte che c'è anche un tema su, tipo, i musei sono in teoria, diciamo, i luoghi che conservano un po' la nostra storia e le opere che noi acquisiamo dentro i musei in realtà le paghiamo anche noi perché sono parte delle nostre tasse, quindi non so, mi ricordo che una volta a un corso mi avevano chiesto come convinci qualcuno a, come dire, pensare che valga la pena comprare X opera piuttosto che dare i soldi a, non so, un ospedale per ampliare un reparto sui tumori dei bambini. E quale cosa ha più valore e in che modo... Pazzesca, eh? No, questa sì, domanda. No, sì, sì, sono le domande che fanno le persone di destra. Però... quindi lasciamole a loro. Sei alla guida e devi investire una vecchia o un bambino. Chi salvi? La vecchia. Va bene. Ha idea, salvo il bambino, ma non è che. No, sì, sono no, domande però, appunto, da stronzo di destra che ti dice... Sono quasi più le istituzioni che sono, hanno le mani più legate in questo senso, o le gallerie perché devono sopravvivere, devono vendere una... cioè, insomma, entrano in gioco diversi valori diversi. Un mecenate che sceglie di investire i suoi soldi invece paradossalmente può scegliere, ha più libertà di scelta. Potrebbe scegliere di investire in un ospedale per tumori. Per bambini. Pure sono anche cazzi suoi. Cioè. Potrebbe scegliere di investire nella radio di Exalge. Pure certo. In tutte e due. Stiamo cercando sponsor, tra virgolette, se esatto. Volete unirvi alla nostra raccolta fondi o... Ma ci stiamo un po' perdendo di vista dal complotto. Gio, porta avanti questo discorso, grazie. Chi cazzo erano questi dadaisti? Per chi cazzo è Fedez? È un dadaista? No. No, dove eravamo? No, cioè... stavi parlando del Wikipedia... com'è che l'hai chiamato? La Wikipedia Run. La Wikipedia no, Run sui Dada. Perché ti ha incuriosito tanto la tematica dei Dada fino ad arrivare a... farci una puntata dell'ora del complotto? No, aspetta, io sono stato obbligato. Io l'ho obbligato. Tu l'hai obbligato, ok. Allora, no, perché comunque, sei stato obbligato? No, allora, partiamo dal presupposto che Dada è la madre di tutti i complotti. Ma metto al femminile. Però un gruppo di letterati a Zurigo si inventa una nuova forma d'arte che cambia il mondo dell'arte e di conseguenza la politica e il sistema anche economico, e il sistema economico dei cazzo di sovversivi che sicuramente sono stati finanziati da qualcuno, da loro stessi, ma che legami avevano loro stessi con se stessi? Cioè, insomma, dillo, non è che io e te oggi con anche Edol, Fedez e Jack forse e Laura. Fedez l'originale. Forse Fedez l'originale, sì, ma Fede Al ci mettiamo e diciamo: questo è il nostro manifesto. Stampiamo 500 copie, invitiamo tutti qua perché abbiamo fondato questo, chiesto questo locale incomodato d'uso a un potentissimo di Zurigo. E da lì parte la rivoluzione artistica culturale per un secolo a venire. Non è così immediato. Quindi cosa c'è dietro? Devi dirmelo tu. Non so, mettiamo una traccia e poi ne possiamo parlare. Stiamo parlando da mezz'ora. Una canzone è già passata mezz'ora. No, ma ragazzi, io ho fatto un elenco di complotti assurdi. Dobbiamo almeno citarli. Adesso scanniamo. Infatti andiamo su quelli, così mi salvi allora dall'interrogatorio. No, ma io però vorrei che venisse esposto alle nostre ascoltatrici e a Gianlu che ci scrive, che ci ascolta. Ciao Gianlu. Ciao Gianlu. Saluto Gianlu. Che cosa hai trovato sul Mossad dei Dada? A me lo chiedi? Scusa, ho guardato te. Dai, ascoltiamoci. Io ho una canzone. No, cioè. Di ti immagini e poi ne parliamo. Vado. Ti immagini Che pezzaccio. Che pezzaccio. Allora, ci tengo a sottolineare per chi sta ascoltando e ha ricevuto delle informazioni completamente sbagliate riguardo al coinvolgimento del Mossad nell'arte dada. E poi non era possibile ai tempi. Non era possibile ai tempi, quasi. Perché? Allora, semplicemente la cara Laura per questo crossover ha proposto, visto che noi l'avremmo rotto un sacco il cazzo sull'arte dada e sull'arte, nella parte crossover. Carino che dice noi, io. Sì, sì, sì, sì, noi. Io e me. Io e il tuo alter ego. Tu e me. Da parte sua ci sarebbe stato tutta una carrellata di complotti da chiarire, parlare o da esplorare. Su alcuni di questi complotti, cioè che si intersecano tutti un po' con l'altro, tutte storie losche che secondo me l'importante da dire è che sottolineano tutte il fatto che il complotto esiste, non è da pazzi parlare di complotto, ma quando qualcuno vuole effettivamente può far succedere le cose, e non è un qualcuno di gigantesco misterioso, ma semplicemente qualcuno che si organizza e cambia il corso della storia, così come possono essere quei 12 cristiani a Cabaret Voltaire o quello che ha sparato a John Kennedy. The Kennedy. Detto questo, sento odore di complotto. Detto questo, dietro a il caso Enrico Mattei, così come Aldo Moro, piuttosto che il golpe Borghese e tanti altri fatti che Laura ha detto parliamone, sono tutti fatti che se abbiamo parlato 36 minuti di dada rischiamo di far notte anche solo con uno di questi. Durante un documentario sul Mossad veniva semplicemente specificato, di Nova Alexio, se volete andare a vedervelo, veniva specificato a un certo punto che poteva esserci un coinvolgimento da parte di Mossad anche in certi fatti accaduti durante gli anni di piombo in Italia, piuttosto che finanziamenti alle Brigate Rosse o... Insomma, presa molto alla larga, nessuna prova, però diciamo che è un po' come dire che c'entra anche la CIA, e c'è una sede in Italia della CIA, e sappiamo tutti che la CIA è dappertutto, insomma, e qualcosa fa, non è che va in giro semplicemente ad ascoltare cose e le registra su dei nastri magnetici e se le mette in cantina. Cos'è che fa? Dici? Ribalta gli equilibri politici del mondo. Sì, cioè alla fine penso. Sì, cosa? Sì, no, sì. Io penso, cioè io associo sì, il complotto. Cosa? Scusa, per io forza. Associo il complotto. Se no, chiudiamola la CIA. Cosa fanno? Stanno lì con le cuffie ad ascoltare. Sì, ribalta, ribalta. Sì, sì, sì, sì. Sì. Ribalta, no, ma perché certo. Secondo me il complotto nasce in un momento. Cioè, se tu se pensi a tutti questi esempi da stessi, si sviluppano in un momento di crisi storica e sono comunque sempre associati a dei personaggi o a delle situazioni scomode da eliminare. Sì, ma non per forza tutto, cioè, un complotto, noi... cioè quello che no, io aspetta, metto sempre in dubbio. Però, cioè il presidente degli Stati Uniti d'America su un'auto, qualcuno l'ammazza, che cos'è? No, ragazzi, quello l'omicidio? È pazzesco. Un omicidio. Avete ma visto il perché? Film? Perché? Da cosa è, qual è il movente? Da cosa è mosso? Avrei un sacco di cose da dire. Immagino da qualcuno che è non il mio gli andava genio preferito. Kennedy. Ok, quindi è una cospirazione, un tentativo da parte di qualcuno di sta agendo per cambiare le carte in tavola. Quindi è effettivamente a tutti gli effetti un complotto, anche se è portato avanti da una persona sola. Allora Edo, hai mai visto JFK di Oliver Stone? No. No, vabbè, pazzesco. Kevin Costner giovanissimo, bono pazzesco, che interpreta la parte di Jim Garrison, che era un procuratore che ha fatto proprio un processo con, cioè, cercando di dimostrare che la morte di Kennedy e anche di Bob, di John e di Bob, fossero appunto delle conspiracies. E che non fosse stato soltanto come okay. È stato incolpato io Oswald. Ho una domanda su queste cose. Cioè, se ci sta, no? Dai, quello che Kennedy mi dite voi. Erano palesemente personaggi scomodi, sì, sì, comunisti. Sono passati, son passati 70 anni? 75? Fine 65? Metà, no, anni 70. Allora, aspetta, 63, ve lo dico. 63, ragazzi, 63. JFK, okay, 63. 60, ok. Quindi più di 70 anni, 75. 70. E non sappiamo ancora chi cazzo è stato, cos'è, no, stato. No, ma lo sappiamo. Si sa? Ci sono, sì, tantissime inchieste, ma ormai è tantissime inchieste affossate, allora, teorie, sono tantissime stati... inchieste affossate da chi? Perché? Tantissime inchieste, no, ma devi, devi vedere false, questo film, è pazzesco, è, cioè, bellissimo. È pieno di roba, non è che è arrivato uno, ha ucciso JFK. No, ho capito, non ho detto quello. Potrebbe anche stare. Mi dico che è stata proprio una allora la tattica anche del fuoco incrociato. Cioè, allora lui sono stati loro, cioè si dice, cioè la cosa dice che questo Oswald ha ucciso John Kennedy con 3 colpi di pistola. Invece alla fine, come dire, questo procuratore dimostra che invece probabilmente i colpi erano 6, di 6 persone diverse coinvolte, e ci fossero tante per, come dire, tante realtà politiche coinvolte, da esuli cubani che diciamo volevano eliminare Kennedy, certo, a gruppi, oddio, c'è anche chi dice che potenzialmente Lyndon Johnson fosse in qualche modo anche a favore di questa questo omicidio. Adesso io sono americana, mi tolgono il passaporto. Infatti basta. No, Bob uguale, ucciso alla fine di una conferenza, sì, subito dopo. Dimostrato, inchiesta chiusa subito, dimostrato che è stato un colpo partito da uno che era in mezzo alla folla. Poi vai a vedere gli audio che sono stati chiusi per anni, non disponibili. Ci sono più di X colpi di pistola partiti da posti diversi. Sì. Perché nessuno ha parlato di altri colpi di pistola? Perché non è stata fatta un'autopsia? Un'autopsia perché? Ma poi c'era la CIA, l'FBI, Clay Shaw. Dopo che questi personaggi, morti, così come anche Martin Luther King, Malcolm X, hanno ricevuto tantissime minacce da tantissimi gruppi diversi. Beh, certo. E poi effettivamente hanno subito diversi attentati per poi finire a morire ammazzati. Ma perché erano tutti, era un periodo caldo americano. Cioè, tra l'altro, in qualche modo io penso che siano anche collegati. Cioè, Martin Luther King sosteneva Kennedy, perché poi Kennedy appunto era un presidente comunista, voleva dare il voto ai neri, voleva finire le guerre in Vietnam. E ha vinto anche grazie a loro. Esatto, e quindi si è inimicato tutto il sud dell'America, certo. Infatti per quello dico Stati Uniti del Sud. Complotto, però può anche essere che banalmente è una persona preso. Quello però posso sud dire più John Lennon. Ti direi, quello è più proprio la persona, no? Complotto, fanatico, okay, che uccide John Lennon. Sì, quello sì, no? Che non è scomodo. Solo che per quello. Nessuno ha un movente per uccidere John Lennon. Oh, abbiamo una voce del pubblico. Fede, piano piano, vieni qui da noi. Non ce la faceva, cioè doveva dire la propria. Proprio... No, vabbè, grazie. Vorrei dire tante cose. Una cosa che dico è che si è scritto talmente tanto di Kennedy che in un libro che io ho letto poi tempo successo? Fa. Sì, tu cosa leggi sul cesso? Dipende, se non ho lo smartphone, riviste, giornali. Dallo smartphone cosa leggi? Secondo me Fede legge Bandi. Bandi. Bandi. Bandi. Io cerco fondi in qualsiasi momento della mia vita. Dove sono i fondi? Ricordiamolo, richieste di raccolta fondi per Radio Exalge sono aperte. Bandi. Comunque, il piccolo aneddoto che racconto su Kennedy è che si è scritto talmente tanto su questa persona che di fatto era favorevole all'interruzione della guerra fredda tra Stati Uniti, o meglio, in parte si era dichiarato favorevole a... che si sa il colore delle sue mutande quando è stato sparato sulla grigio chiaro. Si Grazie. Sa il colore delle sue mutande quando era sulla Cadillac scoperta dove l'hanno sparato. Mi fa estremamente piacere sapere questa cosa. Un valore aggiunto alle loro tesi, immagino questo. Sì. si sa quello, ma no, non però, quanti colpi l'hanno preso. Poi in realtà comunque, assurdo. Per me, io non so perché, ma ho deciso di aderire a questo crossover perché è una cosa che proprio mi intriga tantissimo, il complotto politico. Cioè mi sento è affascinante. Allora, cioè pensare che ci sia una parte di popolazione che sa delle cose che nessun altro sa. Potremmo cercare di aprire Edo al mondo del complotto, soprattutto secondo me tramite il golpe borghese. Bellissimo. Perché il golpe borghese ha veramente dell'assurdo, ma è talmente reale e concreto che tu dici: ma com'è che io non ne ho mai sentito parlare? Dimmi. Golpe di estrema destra, questo, eh? Ecco. Quindi parte opposta. A chi? Lo racconto. Allora, è stato un tentato colpo di Stato avvenuto nel 1970, precisamente tra la sera del 7 e l'8 dicembre. Mi sa che ho ascoltato un podcast su questa cosa. Veramente? Sì. Oddio. Sì, sì, sì. No, non è quello di Romanzo Criminale. C'è il Romanzo Criminale, sta roba. Sì, sì, sì, vabbè, vai avanti, prego. Valerio Borghese, appunto, che è fondatore del Fronte Nazionale, tenta di fare un golpe, che poi però, diciamo, di fatto non avviene, no? E tanto che lui poi scappa in Spagna, mi sembra, sì, una cosa del genere. E niente, lui voleva colpire il Ministero della Difesa. Aspetta, aspetta, non è che tenta di fare un golpe. Lui ha tirato in mezzo Cosa Nostra, mafia, Licio Gelli, massoneria, P2, tutta la politica, Parlamento, vai, Senato, i boys, come aspetta, mi piace chiamarli, bravo, i boys, militari, polizia. Non è riuscito a tirare in mezzo i carabinieri. Ha comunque tentato, rispetto per la fiamma, voleva uccidere Saragat, questo, il presidente era Saragat, e questo era un po' il... Ha comunque mandato l'ordine di fare questo golpe. All'1:40 l'ordine stava essendo eseguito e tutti stavano più o meno al loro posto, e tutte le istituzioni si stavano muovendo per sovvertire il governo e piazzare un governo dittatoriale di estrema destra. All'1:40 lui dice: no, raga, ci ho ripensato. Chi è che gli ha detto che qualcosa? Chi è? cioè, chi è dice un complotto che nel complotto. È un complotto nel complotto. Pazzesco. Pazzesco. Ma chissà chi gli ha detto ci che sono cosa. Due ipotesi. Due ipotesi. Una è Licio Gelli, mio fratello. The same, the one. The boy, come mi piace chiamarlo a me. Esattamente. L'altra è il presidente di come si chiama? DC, che è stato poi il successivo presidente della Repubblica, Fanfani. Questo sempre in un periodo Cosa gli hanno detto? Cosa gli hanno detto? Gli hanno detto: no, guarda che fa una cazzata. Va già bene abbastanza così. Adesso ti spiego. I fasci ci sono già in realtà. Va abbastanza bene così. Non li abbiamo bruciati. Adesso nel ti 44. Spiego e come anche torno verso i Dada. Allora, qua ci abbiamo si ricollega un po' come idea anche al caso di Enrico Mattei. Ci sono delle tendenze a livello mondiale a cercare un tipo di accordi che sono magari quelli che potremmo definire sovranisti, ok? Quindi potere nelle mani di singoli o piccole entità che decidono cosa fare. Senza andare nel dettaglio, pensare che tutto il mondo sia governato da un gruppo solo. Invece ci sono altre tendenze che cercano più cooperazione, cosmopolitismo, e cercano di aprire certi confini politici, certi dogmi verso un liberismo diverso. Quindi sovranismo, cosmopolitismo, mettiamola così. E John e Bob Kennedy, Enrico Mattei, che se vogliamo solo dirlo è stato il fondatore dell'ENI. Fondatore dell'ENI, che era trattava molto con Kennedy per fare accordi per il petrolio nordafricano, per aprire il mercato, perché era tutto monopolio di Stati Uniti, Inghilterra e Olanda. Sovranisti. Tra l'altro, parentesi ulteriore, c'è un bellissimo film di Rosi con Gian Maria Volonté sul caso Mattei, molto bello. Grazie. Insomma, ci sono ci sono queste due, le mutande grigie già di tutto quello che ho. Ma te lo grigie. Puoi riascoltare. Avrà Arco 2, vero? Che culo. Solo su Radio Axaglio. Insomma, ci sono due, tutte queste storie che si intersecano un po', rispecchiano due tendenze. Una un po' sovranista e una un po' liberista. Quello che ha fatto per esempio Dada cos'è? È stato terminare completamente, aiutare a superare il sovranismo, perché nasce con la prima guerra mondiale appunto, ed è una forza estremamente liberista, tramite l'arte anche poi in politica. L'ultima forse, a parte Spagna, Inghilterra, Italia, che però sono state monarchie comunque ridefinite, è stata la Russia, che è sfuggita un po' alla tendenza liberista, capitalista, globalista, grazie alla rivoluzione d'ottobre, al D17, che ha interrotto un po' il processo di, cioè l'ha separata dalla prima guerra mondiale, che è stata la fine dei sovranismi, per poi vabbè ricadere in dittature. Vabbè, poi c'è inciampato un attimo. C'è inciampato un attimo male, ma fa tutto parte. Però ci siamo divertiti. Fa tutto parte di un progetto per arrivare a una sorta di cooperazione globale liberista. Mm-hmm. Ok, quindi ci sono queste due tendenze, insomma, che lottano. Se vogliamo vedere un po' a livello globale quali potrebbero essere, piuttosto che i gruppi, le tendenze che governano il mondo. E lo vediamo sempre, cioè poi è un discorso molto polarizzante, un po' stupido, però è abbastanza si rispecchia abbastanza in molte cose che ma succedono. Ma se tu dovessi schierarti da una delle due parti? Giolandia. Il mio paesino anarchico, indipendente, che comunica con tutto il resto del mondo, ma tramite una mula e un carretto. A suon di schiaffi comunica. Esatto. Che bello. Io sono assolutamente cosmopolita, ma non in senso Dada. Disprezzo la fontana perché di Giussano. Devo dire che invece il motivo per cui ho scelto i Dada per dare il nome alla mia radio, al mio podcast, è stato proprio il fatto che quello che io adoro del movimento Dada è che loro mettono in discussione, cioè hanno la libertà e la leggerezza di mettere in discussione tutto, cercando invece dei nuovi valori e non dando per scontato il fatto che quello da cui veniamo sia necessariamente il giusto o quello che effettivamente rappresenta le nostre identità. E credo che oggi, in un momento in cui il discorso identitario è molto critico e molto sottile, sia molto importante il fatto di imparare ad avere, cioè fare un passo indietro e forse anche lasciarsi stupire dal fatto che esistano delle cose diverse da quello che a cui siamo abituati. No, ma infatti cioè, quindi... è affascinantissimo, cioè il vero movimento punk, sì, cioè, che oggi noi lo chiamiamo punk, erano punk inizio Novecento. Sì, puoi allinearti o meno, però forse sono un po' incattivito da pensarli, perché ma forse non è un accanimento nei con loro confronti, ma nei confronti del dopo. Mm-hmm. Ovvero non c'è stato poi un superamento, nonostante 70 anni di dopoguerra dalla seconda, non c'è stato un effettivo superamento di quelli che erano poi di quelli che poi si sono rivelati i limiti del liberismo e del capitalismo, soprattutto perché da dopoguerra si è puntato solo su quello per 70 anni e secondo me è completamente svanita l'idea di resistenza, anche persa in una complessità del mondo crescente esponenzialmente, cioè se all'inizio del Novecento era una crescita veloce, adesso è esponenziale, si è perso ogni possibile tentativo di resistenza, tentativo di superamento di certe logiche ormai instaurate e decise. Che secondo me è difficilissimo, non so, è una mia impressione, però per noi, ma anche per le generazioni più giovani di noi, avere uno schieramento identitario chiaro. Cioè se io penso ai miei genitori, essere comunisti, essere fascisti, cioè era un'identità fortissima, cioè al di là della lotta politica era anche un modo di vestire, di parlare, quello che leggevi, quello che ascoltavi, cioè scendeva proprio la società. Poi non so se è una cosa anche molto milanese, non so, penso a mio padre e alle sue lotte comuniste, però era importantissimo quel senso identitario di gruppo, cioè essere parte di quel gruppo politico era una parte fondamentale dell'identità. Oggi quel tipo di schieramento è difficilissimo, perché invece all'interno di ciascuna identità ci sono tantissime sfaccettature che secondo me, non so come dire, noi non ricerchiamo più, siamo una società molto individualista invece, quindi facciamo fatica, non cerchiamo più quella dimensione di gruppo, anzi facciamo... Boh, secondo me cambiano i nomi ma non cambia l'approccio. Cioè? Semplicemente. Ma che io credo che ci sia ancora oggi, parlo anche magari di generazioni anche più giovani delle nostre che hanno un senso di appartenenza. È un senso di appartenenza diverso, un senso sì. di appartenenza più... più fluido, più, sì, più tipo la fanbase di Fedez, cioè ci riconosciamo tutti per essere Fedez. No, non è la fanbase di Fedez, no, nel senso che comunque ti senti parte di un gruppo nel sentirti parte di un milione di subscriber a una certa piattaforma. Sì, però è qualcosa però di sociale, cosa lì, però quella cosa lì ti classifica anche in un modo di parlare, di certo, vedere il mondo, di certo. vestirti, sì, sì. di esattamente come quello. È chiaro esatto. che il problema i genitori e il papà di Laura arrivava da un retaggio di un certo tipo, ad oggi il mondo che dagli anni 80 in poi ci hanno lasciato è quello e boh, cioè non la vedo come una cosa per forza peggiore o migliore, cioè la vedo comunque come un costante associarsi a qualcosa in forme diverse. Oggi io quello che mi capita di vedere, magari tra persone anche più giovani, che ormai mi rendo conto proprio che io già sono, ho perso il contatto con già quell'universo, però io lo vedo un senso di appartenenza. È diverso, è no, diversissimo. Ok, però la questione secondo me qual è? È che questa diversità, come se cioè se non capisci non è detto che non esiste, capito? Cioè... No, assolutamente, ma io ti dico esiste sicuramente, però è molto diverso anche quello che ha come implicazione sociale e culturale e a livello individuale nelle persone. Beh, ma grazie al cazzo, che... cioè noi viviamo in una democrazia da X anni, cioè magari il discorso era diverso per... Beh sì, Joe, è una democrazia che poi abbiamo il governo, che... però è una democrazia, cioè posso... nel senso, no, scusa, finisco un attimo di parlare, poi cioè è una... viviamo in una democrazia, poi e noi ormai ci siamo adagiati su una serie di libertà che ci risultano scontate e quindi ne vogliamo sempre di più, ma basta un attimo guardarsi intorno oggi. Boh, mi sembra che probabilmente queste libertà che abbiamo noi oggi, c'è una grandissima, enorme fetta di mondo che non ce le ha. Cioè, prego, scusa Fede. No, grazie. No, per esempio, è molto complesso, ma a me mi raccontavano che quando c'erano gli scioperi generali negli anni 70-80, tendenzialmente promossi dai grandi sindacati che una volta avevano un ruolo e oggi forse sempre meno, chi era dall'altra parte, e quindi diciamo cosa succedeva, che ad esempio a Milano giravano queste Fiat Renault 4 queste, quello era un coro su Aldo Moro, poi magari lo cantiamo ma in un altro momento ce l'abbiamo, la regia è pronta. Però diciamo che mentre giravano queste Fiat con gli operai che scendevano poi dalle macchine e bastonavano i colletti bianchi, fondamentalmente tanti colletti bianchi andavano in giro con il Loden, le scarpe a punta e poi magari il giornale di lotta comunista nella tasca per confondere le macchine di operai che facevano la ronda. La notte che le pantere ci mordevano il sedere. Esatto, per iniziare a fonderci con la serata a venire. Ma questo solo per dire che forse una volta era molto più semplice essere, tra virgolette, politicamente puri e schierati di oggi, perché la complessità del mondo è aumentata. Oltretutto basta guardare questioni geopolitiche, tipo cosa vuol dire essere un israeliano comunista in questo momento a Tel Aviv o a Gerusalemme, quale può essere il suo posizionamento. O un tedesco pro, pro Palestina. Eh sì. Però è importante prendere una posizione su alcuni temi con la consapevolezza che probabilmente quell'espediente che veniva usato del giornale di lotta comunista all'interno dell'Oden, che era il simbolo del era il cappotto dei sambabilini a Milano, fondamentalmente deve essere, in alcune situazioni deve essere per forza necessariamente usato anche oggi, ad esempio quello che sta succedendo in Germania. Sì, ho potuto vedere un po' di settimane fa a Berlino, che è veramente pesante. Ho un amico che fa il medico e che mi diceva: io il giorno in cui inviterò un collega a cena dovrò togliere una mini bandierina della Palestina che c'ha, perché dice, perché rischio di perdere il lavoro. Cioè, comunque questo di cui volevo sottolineare è il grado di complessità, che è insuperabile, e una risposta artistica da parte di, appunto, la figura dell'artista, che dovrebbe rappresentare il momento ma anche promuovere una sorta di movimento verso il futuro, manca. Cioè, non starei a pensare a quello che abbiamo di buono che il Dada, per esempio, ha conquistato alla fine del sovranismo e alla nascita delle democrazie a livello globale, mentre a livello globale, tra virgolette, perché poi le democrazie sono le principali potenze globali che colonizzano il mondo e sfruttano il resto del mondo per garantire quello che noi abbiamo. E poi si potrebbe fare una discussione anche su effettivamente l'origine della parola democrazia e quello in cui stiamo vivendo adesso, se effettivamente possiamo definire la democrazia, ma non in senso cattivo nei confronti di quello che vuol dire la parola democrazia o di quello in cui viviamo. Semplicemente forse non è la parola giusta per descriverlo. Comunque, secondo me, la genialità dei Dada stava nel fatto che, cioè, quello che penso è che comunque l'arte è intrattenimento prima di tutto, cioè di fatto è questo, e la loro genialità è stata quella di sovvertire appunto tutto un sistema politico e culturale, ma in una maniera spiritosa, ironica, leggera, quindi rendendo questa cosa fruibile veramente da tutti, facendo un'arte per tutti. Però anche un po' geniale. Però anche un po' geniale. Una maschera questa. Perché dici maschera? Perché nel senso geniale. Che vai a semplificare tanto qualcosa per renderla fruibile a tutti, ma poi effettivamente lanci i messaggi che vuoi. E sei potente con la comunicazione, certo, in un certo modo. In quel senso assolutamente. Però cioè, vabbè, trovandomi io d'accordo in quella posizione. La fontana di Duchamp, così come la banana di Cattelan. No, però vi prego, non mettiamoli sullo stesso piano adesso, nel senso. Oh, ma Duchamp però era un genio. Okay. Cattelan un coglione. Ok, va bene. Duchamp non è diventato ricco. La merda d'autore di Manzoni. Geniale. Ok. Sono cose, cose relativamente semplici, che però hanno un effetto devastante. No, ma capisco cosa tu vuoi dire. Cioè, di fatto. Ma infatti, scusate, volevo dirvi una cosa. In quel senso, uguale la banana di Cattelan. È una cazzata, ma ha un effetto devastante. Non so se notate che il complotto. Cioè, facevo questa discussione con un mio amico politico, che effettivamente, perché tipo uno dei primi complotti che io vi ho messo in elenco era Ustica, che effettivamente è un complotto meno noto per il fatto che è quasi in qualche modo, non dico apolitico, però scusate, adesso cerco di arrivare al punto del mio discorso, ma se notate, i complotti che effettivamente sono famosi raccontano una certa parte di storia, che sono sempre tendenzialmente una storia di sinistra o comunque... tipo il golpe borghese. No, vabbè, però, cioè, come dire, il complotto stesso, quando viene raccontato, ha uno schieramento politico e racconta in qualche modo, cioè racconta la storia di un certo movimento politico, cioè va a sostenere una certa parte, sì, no? Non solo, però Enrico Mattei è un aspetto industriale del complotto. Sì, però un altro... comunque è, cioè non so come dire, trovo interessante il fatto che poi il complotto in sé viene sempre, cioè va sempre a sostenere una certa tesi. E se ci pensi sono meno i complotti che sono associati a un certo schieramento politico più dell'altro, quasi come se ci fosse una storia di vittimismo da una parte da dover raccontare, non so come, poi non so come dire, adesso lo sto dicendo un po' male forse. No, ho capito, provo a rigirare per vedere se ho capito. A Ustica non è morto nessuno di importante di cui nessuno fregasse veramente qualcosa. No, non è stata una morte, almeno vabbè, cioè questa idea, cioè comunque ovviamente una storia politica dietro, però non è uno schieramento deciso politico, è più sì di innocenti. È un errore. È un errore, esatto. Un errore. Sono finiti di mezzo per sbaglio degli innocenti. E nessuno se ne vuole accollare la responsabilità. Sì. Sentiamo un altro livello da parte del nostro radioascoltatore. Posso, Edo? Prego. Tanto mi sto pisciando addosso, quindi ti lascio. Prendendo l'esempio. Come esempio l'omicidio Matteotti, che si verificò dopo che Matteotti, di fronte alla Camera dei Deputati della monarchia italiana, rivelò che le elezioni fasciste erano state falsate da violenze, estorsioni, prevaricazioni, e poi dopo un mese è stato ucciso, e addirittura poi Mussolini dichiarò un po' velatamente che era stato poi effettivamente lui il mandante, e quello fu il momento in cui salì il fascismo in Italia di fatto. Allora io credo che la sinistra ha sempre avuto il ruolo di svelare i complotti, mentre tipo oggi con Trump, fake news eccetera, la destra ha in qualche modo costruito tanto del suo riconoscimento sui complotti non svelati, e quindi sulle fake news. E quindi il compito della sinistra, seppure è noioso, No, ma poi io sono da quella parte, dico che però effettivamente nel fare questo elenco, quello che poi io, poi adesso forse anche per mia personale interesse, però si nota questo aspetto, cioè, però scusa, lo stesso vale, tornerei sulla mia tesi, perché anche per i desaparecidos sì, giustamente c'è molto meno interesse sia nell'indagare che nello, sì, scoprire. È come se il complotto va a sostenere delle tesi, cioè come dire, in fondo è quasi usato come strumento per sostenere una tesi politica. Allora, capito? A livello strumentalizzato. Sì, però è anche vero che nel momento in cui ci sono dei centri di potere ci sono più cospirazioni per ribaltare uno o l'altro potere, giusto? Nel momento in cui viene preso di mira un debole, quindi un aeroplano pieno di civili che non c'entrano un cazzo con niente, così come dei morti di fame che vengono rapiti e buttati al macero piuttosto che usati per traffico di organi o traffico sessuale o qualsiasi altra cosa, lì serve una movimentazione popolare, civile, per iniziare a indagare, altrimenti non ne frega un cazzo a nessuno. Sì. Se invece ci sono dei centri di potere e questi iniziano a saltare o a dimostrare delle contraddizioni, ci sono altri centri di potere che già indagano e che, no, questo sì, certo, sono d'accordo, e che renderanno molto più palese la cosa per portarsi, sì, certo, dalla loro parte, la loro tesi, certo. Ok, quindi sono molto più palesi. Allora, in questo ma senso... non è vero che la sinistra non ha complotti da difendere, diciamo, e che la destra non... Stalin qualcosina ha fatto anche lui, diciamo. Qualcosina è successo anche in Russia, ma... Però in questo senso, secondo me, il compito dell'artista è quello di svelare attraverso le sensazioni la vera realtà, e quindi l'artista ha questa responsabilità. Poi... che oggi i sovranismi, tipo migranti che ci rubano il lavoro o robe così, facciano leva su dei complotti che in realtà non esistono, io ogni tanto lo sento, lo vedo. Sì, no, ma qua parliamo solo di complotti veri, yeah, non di fake news. Complotti veri, verissimi. Complotti veri. Verissimi. Ma cosa ne sai tu? Ma io volevo lui, chiedervi in finale, perché so che dobbiamo chiudere adesso. Sì. Possiamo fare Hendrix? Aspetta, possiamo mettere Renault 4? Dai, va bene. Bravissimo. E poi facciamo l'ultimo pezzo? Sì, dai, dai. Compiamo. Che suscitano in chi le sceglie sono capaci di vivere tanti anni da entrare nel quotidiano. Per questo P38 si affida alla Renault 4, versione rossa, perché a volte l'unica cosa di cui si ha bisogno è spazio, tantissimo spazio. Oh oh oh oh, papà Dimitri al beat. Voglio una pistola e un beat di Dimitri. Ok, ti metto dentro una Renault 4. Brigate rosse scritto sul contratto. Presidente, non mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Ti metto dentro una Renault 4. Brigate rosse scritto sul contratto. Presidente, non mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Ho incontrato Bruno Vespa, io ho sparato alle gambe. Mi diceva buonasera, ma in un lago di sangue. Di 38 è la mia gang e vaffanculo al resto. Produzioni di Mitri, guarda il buio pesto. Un fucile puntato sulla famiglia del premier. Signor Draghi, siamo a casa, avanti, venga a vedere. Questa vita mi fa schifo e non ne voglio sapere. Cago regolarmente da quando i dischi di Fedez. Ma il governo ora è aperto ed esce fuori la merda. Sono a store, taglio teste con una motosega. Mi presenti come fuori e dica vaffanculo, che sono carico di zitto, quindi esplode la sedia. Cago sopra la Lega, sparo in testa a Matteo. Se poi muore mi seguo, apro il fine e festeggio. In Italia è ancora brutto se ti chiama l'ebreo. E il problema principale è non trovare parcheggio. La mia gente in nervi tesi e se ne fotte dell'Idis. Stiamo per decapitare il videomaker di ID. Siamo matti coi compari, guido senza le mani. Mentre investo sulle strisce, tu che lo fornaggiari. La mia merda fa paura perché spara diamanti. Non mi piace Mattarella, preferisco Fiersanti. La vita non rallenta quando passa davanti. Ha bisogno di mentire come Pamela Prati. Ti metto dentro una Renault 4. Brigate rosse scritto sul contratto. Presidente, lei mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Ti metto dentro una Renault 4. Brigate rosse scritto sul contratto. Presidente, lei mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Buongiorno presidente, sono la dittatura. Un posto in macchina per lei ma non lavoro in questura. Ma davanti al politburo dell'Unione Sovietica. Fotto un cazzo se Stalin adesso un bastardo tossico. Con i miei prole c'ho solo traffici illegali. Li chiamo fratelli ma sono tutti compagni. Sono caliente come il ferro, io mi sporco le mani. Sto comprando soldi sporchi poi li vendo al doppio. Questo infame dice le mie bimbe sono puttane. Ste puttane danno spranghe prima a te qua tuo padre. C'ho la punta dal Maghreb, solo così resto magro. Se un Apollo prendi quota sbatterai sul mio casso. Fanculo la fede, nel naso caccia e pepe. Le ragazze amano Stalin perché ucciso Benji e Fede. Alla tele scandalizza che uno sbirro è corrotto. P38 allo sbirro scandalo se non è morto. Sono il capo del regime, senza corona in capo, che ha ammazzato la regina. Mi asciughi lo swag con i rotoli regina. Codeina Palestina, ora è il tempo di colpire. Ti metto dentro una Renault 4. Brigate rosse scritto sul contratto. Presidente, non mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Pepe Pento, tal come Black Block, no cap, all black. Magica d'avere il Pinochet, la bussola segna sud-est. Ehi, ratata, ho perso gli amici, non la dignità. Meglio da solo. Giovane Pentotal, più gin che reati, ho più reati che gin. Bombe nello studio di martedì. Salvo Marta con lo, mio frassa sotto con l'Oxy. Sai che siamo i colossi, fissi in strada addossi. Cazzo flexi, resti al verde, 38 sberle al vento, 20, 20, 7, 7. Rapper con catene al collo come a Sampa. Non cogli sotto testo se sei sotto con la bamba. La chiamo Maracagol, parli e non ti cago. Pistola in bocca, chiudo gli occhi e sparo. Siamo la nuova onda, high life cerchiamo il morto come le guardie in Alimonda. Pacco la tua tipa poi le mando un bacio. Leggo mille piani, non capisco un cazzo. Pacco la tua tipa poi le mando un bacio. Leggo mille piani, non capisco un cazzo. Ti metto dentro una Renault. Brigate rosse scritto sul. Presidente, lei mi sembra stanco. La metto dentro una Renault. Ti metto dentro una Renault. Brigate rosse scritto sul. Presidente, lei mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Quindi ci sta a parlare di Aldo Moro. In questo modo, sì. Allora, ho proposto un'ultima carrellata per collegare Aldo Moro al Mossad. Ragazzi, adesso apro il mio internet, il mio Facebook. No, l'avevo già detto. Semplicemente in un documentario sul Mossad veniva ricordato che, essendo un ente di spionaggio molto ben finanziato e intrallazzato con tutto il mondo, è possibile che alcuni dei soldi e delle energie, delle risorse vadano a promuovere ribaltamenti di situazioni, finanziamenti di qualche gruppo, come potrebbe essere le Brigate Rosse, piuttosto che altri elementi dell'altra medaglia, quindi le forze fasciste, piuttosto che di estrema destra, di estrema sinistra. Lì, in quegli anni di piombo, strategia della tensione, c'era tutta un'idea di complotto dietro nel cercare di destabilizzare l'ordine costituito democratico, finanziando la tensione e quindi far notare quanto potesse essere fragile un ecosistema democratico semplicemente facendo sì che le persone si ammazzassero, così ci fosse bisogno di ordine e disciplina. E chi meglio lo dava l'ordine e la disciplina? E chi meglio? E si pensava, non so, magari che le BR fossero un gruppo di Edo, Joe, Laura e Fede che dicevano: ah, ci organizziamoci e andiamo a prendere il presidente. Magari invece avevano... Ma era così, lasciami sognare, che erano quattro ragazzoni con le barbe lunghe. Un po' un Mangione. Un Luigi Mangione. Un Mangione degli anni 70. Mio fratello, Luigione. Porca Maria. Ma ups, siamo in radio live. Beh, si può bestemmiare su Radio Sì, sì, ma è una fare bestemmia, porca Maria. Oh, porca Maria, mi sembra nel senso. Mi sembra abbastanza. Ma io, guarda, sono il primo che bestemmia sempre, quindi. Ma io non bestemmio comunque. Infatti mi è sembrato strano. Ma infatti io ho capito marea. Amore, no. Amore, non la insulterei mai. Ciao Bidu. Ciao. Ecco. Va bene. Scusate, ok. No, niente. Quindi chiudiamo. Non so, facendo cosa. No, dove eravamo rimasti? No, Aldo Moro. Laura, raccontaci qualcosa, perché tu hai espresso una approvazione nei nostri confronti di come sei trovata, no, bene, guardate, questa sera. Non vorrei metterti parole in bocca. Vorrei fare dei podcast solo su il mio punto debole, cioè il complotto. Su il nulla. Come allora, infatti, guarda, l'ora del complotto da oggi è tua. No. Noi ci prendiamo Cabaret Voltaire. No. Siete troppo Avrei belli. Una battutina da fare. Dai, falla, falla, Edo. No. Vai. Niente, va bene. Allora, la mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo governo guidato da Andreotti doveva essere appunto presentato in Parlamento, viene rapito Aldo Moro. Chi era Aldo Moro? E chi quello se ne frega? Ti metto dentro una Renault. Dici. Allora, cosa succede? Prigionia per 55 giorni. Ormai sappiamo che a essere fautrici di questo rapimento sono state le Brigate Rosse. E appunto il giorno 9 maggio, quando anche Peppino Impastato viene ucciso Aldo Moro. E anche quando liberato ha fatto bella canzone. Ecco, esatto. Questi tre momenti importanti del 9 maggio. Per me essenziali. Cioè sono tre. La vedete già la linea, no? Del complotto. Il senso delle Brigate Rosse era, credo, quello di colpire chiaramente la DC e quindi, diciamo, lo stato imperialista un po' delle... No? Guarda che Fede vuole intervenire. La DC, che aveva appena approvato la costruzione di tutta una serie di basi militari americane nella penisola italiana. Ricordiamolo. La DC, che è salita al potere con la Repubblica nel dopoguerra, e grazie anche agli americani e alla mafia, perché l'Italia è stata liberata grazie alla mafia, dai nazisti e dai russi, non dagli americani. Gli americani si sono presi un po' di meriti ingiusti. Strano. Secondo me i russi ci hanno liberato più che gli americani. Io non ho visto un russo in Italia. No, dai, non è vero. Lo sbarco in Sicilia con la mafia e degli americani. Perché sì, si è storicizzato sto evento. Piano Marshall. Johnny, minchia, sei tornato. Minchia la carbonara. Ma come sei dimagrito? Sei marea. La nostra siculina. Va bene, tornando a noi, quindi questo appunto grande complotto, direi dichiarato, di Stato, cioè zero zero oscurità. Aldo Moro. No, Aldo Moro, no, nel senso, sì, poco lasciato a nell'ombra. Cioè c'è chi l'ha rivendicato per una motivazione, quindi direi che mi sembra più... Ci sta. Senza... Non diciamo più niente. No, no, ma poi penso che su ogni cosa si possa dare poi una lettura stratificata. Sì, no, anche Piazza però, Fontana era esplosa una bomba perché qualcuno... Vabbè, lì non è stata rivendicata, però è stata rivendicata da tantissimi, da tutte, appunto, le fazioni diverse, cioè, sì, appunto, cioè lì c'è una che poi hanno provato che qualcuno era un infame. Lì c'era un gruppo detta proprio storicamente, hanno ritrovato e si, cioè nel senso un po' diverso. Piazza Fontana ancora una situazione un po' diversa. Beh, insomma, hanno parlato per tanto tempo che fosse fatta da qualcuno, invece è stata fatta da tutt'altro. Cioè, diciamo che su Aldo Moro, che vuol dire hanno anche fatto un ottimo film in cui Gianmaria Volonté interpreta Aldo Moro, che vi consiglio ai 20.000 ascoltatori di 20.000 euro. Giallo, ecco, ma Giallo l'ha visto 10 volte. È il suo film preferito, quindi cazzo stiamo parlando. No, la cosa un po' particolare è che Aldo Moro di fatto ha sempre tentato in tutti i modi di riunificare le sinistre, la sinistra italiana in quel periodo, cioè il suo obiettivo. Eh sì, era ricreare un esatto. E quindi diciamo tutti i partiti durante questa sua campagna lo idolatravano, cioè lui era il segretario generale della DC, cioè voglio dire, però appena è stato incarcerato la sinistra stessa ha cominciato a diffondere, dopo un tot di giorni che era in isolamento, l'hanno rinchiuso fondamentalmente in uno stanzino a cui si accedeva spostando un armadio insonorizzato di 3 metri per 4, cioè è stato 58 giorni fondamentalmente, da dove ha scritto lettere al Papa, il quale gli ha risposto, insomma. Però la cosa un po' così, un po' complottistica da questo punto di vista è che nonostante lui fosse un po' l'emblema e il simbolo per la riunificazione della sinistra in Italia, proprio le Brigate Rosse. Proprio le Brigate Rosse ma poi la sinistra italiana stessa, dopo una trentina di giorni, ha cominciato a diffondere notizie sui giornali rispetto al fatto che Aldo Moro ormai era completamente fuori di testa, che stava perdendo la ragione, e via dicendo. E poi di fatto l'ha abbandonato perché le BR avevano proposto un accordo perché fosse liberato. Non era un rapimento per ucciderlo, ma era un rapimento con delle condizioni. Sì. Sì. Sì. Sì, e nient'altro da aggiungere, sì. Vostro onore. Sì, no, beh, sì. Penso che ci sia poco da dibattere su questo complotto. Se non Jimi Hendrix, e poi la chiudiamo con De André. Sì, non volevi parlare di droghe. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Sulle 10. Jimmy. Sulle 10. Niente, cosa diciamo di Jimmy? No, allora Jimi Hendrix è morto per overdose strozzandosi allora, nel vomito. Era un chitarrista mancino bravissimo. Madonna, si faceva un sacco di roba ed è morto. Vi dico perché solo si è fatto che è morto troppo. Nel settembre del 1970, giusto per dare delle specifiche ai nostri ascoltatrici. No, 1970. Sì, subito. 970. Asfissia, morto nel suo vomito. Sonno indotto da barbiturici, pare. Ok. Chissà. Barbiturici presi da lui o invece le Brigate Rosse. Andate villa. Bon Moretti con i baffi che è andato lì, gli hanno pensato due barbiturici. No, era passibile di moventi? Cioè, chi è che avrebbe potuto voler uccidere Jimi Hendrix? Purtroppo nel mondo dell'internet neanche ChatGPT, che comunque è un complotto essa stessa, sì, se l'è inventata insieme al, vorrei dire, al kombucha, la kombucha che io detesto tanto, scusa Anna. Ma non l'hai mai provata a fare? Non hai capito, la mia coinquilina ha una scaffale in cucina pieno di kombucha che fa lei. Terribili. Ma scusa, amore, spero che non stia ascoltando. No, dovresti provare a farla, a farne una versione tua. No, ma mi fa schifo la kombucha. Ok, fai fermentare i barbiturici e poi il mio vomito. Te li bevi e poi ci sbocchi dentro. Aspetti un mesetto, te è più buona della kombucha che abbiamo noi comunque, probabilmente. No, sì, ragazzi, anche me, a me piaceva quella che facevo io. Basta. Non l'ho mai assaggiata. Perché... tu hai fatto un drink buonissimo. Adesso mi bevo il tuo drink. Sì, no, comunque consiglio invece il succo al mandarino che ho appena acquistato. Brava. Ah, tra l'altro, se vogliamo fare un po' di pubblicità, quel succo di mandarino sosteneva la violenza sulle donne. Esatto, il contrario. Il contrario. Il contrario. Ogni mandarino mangione, uno schiaffo. Era di mangione, esatto. Un mandarino uno schiaffo. Esatto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dai, va bene, basta, chiudiamo. Ci odiano. Va bene, Gio voleva chiudere con Hotel Supramonte. Sì, perché di anche la moglie di De André è stata rapita dalle BR, dalle BR, proprio sì, loro. BR. I sardi. E perché? Che movente. Boh, per me. Perché De André era troppo oltre. Io bisognava punire. Ma stasera è la serata tema De André. Esatto. Ma perché, scusate, è l'anniversario della morte? No, cos'è che c'è? A me non piace molto, quindi. Sai che devo dirti, non è il mio preferito. Però è proprio la serata non inadatta è il mio preferito. Per parlarne. Il mio preferito, sai chi è? Vediamo se lo indovini. Battisti. Ma va, dai, no. Lucio Dalla. Grande. Volevo fare una domanda a Joe, se posso. Non ho capito. Il numero da lei chiamato, cioè, De André non è il momento disponibile. È stato rapito anche lui dalle Brigate Rosse. La moglie. No, ma la moglie? Tutti e due, No. Non, solo lei? Ok. Io sapevo solo lei. Sì, in Sardegna. Dove? A Porto Mallorreddus, ovviamente. Cazzo. Ciao. Va bene. È andata così, la chiudiamo. Vado. Con Hotel Supramonte. Che bello, grazie che mi avete ospitata. Grazie a te. Adesso grazie che è riuscito ad ascoltarci. E alla prossima puntata. Complimenti. Ciao. Ciao. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo, e una lettera vera di notte, falsa di giorno, e poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei perduta? Col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è? Dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere. È un invito all'Hotel Supramonte, dove ho visto la neve. Sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è? Dov'è il tuo cuore? ma dov'è? È finito il tuo cuore. E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?